Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, auguriamo buona digestione a tutti perché questa sera parliamo di cibo, parliamo di food economy. Buonasera ad Antonio Belloni. Buonasera. Antonio Belloni è l'autore di questo libro che si intitola appunto Food Economy, l'Italia, le strade infinite del cibo tra società e consumi, edito da Marsilio. Antonio Belloni si occupa di problemi di comunicazione e internazionalizzazione, ha scritto anche un libro sul Made in Italy di cui abbiamo parlato in questa stessa rubrica alcuni mesi fa, Esportare l'Italia. Ecco, in questo libro Food Economy si parla di, in modo particolare, di cibo, un po' in relazione anche all'Expo 2015, è vero Antonio Belloni? È vero, è un'ottima occasione, speriamo che sia un'ottima occasione per il cibo italiano. Ecco, però l'idea di scrivere questo libro le è venuta guardando la televisione, uno dei tanti programmi che si occupano di cucina, ma questo non è un libro di ricette di cucina. No, non è uno dei tanti, forse troppi libri di cucina che circolano e che fanno tanto fatturato per un'editoria non in crisi. Ecco, quindi è un settore che funziona, quello del cibo, anche nella carta. Anche nella carta, anche come consigli pratici. Però questo è un libro di economia, possiamo chiamarlo così, un libro che parla di questa realtà produttiva e allora possiamo spiegare perché è importante la food economy, l'economia del cibo in una realtà come quella italiana. È importantissima perché ci troviamo in una, diciamo, congiunzione astrale molto particolare. Abbiamo delle masse enormi di classi medie mondiali, globali, che consumano molto cibo, quindi dal punto di vista quantitativo spingono sull'acceleratore. Sono un po' come noi durante il boom economico. Mentre i paesi occidentali come il nostro, come l'Italia, quelli più avanzati, cambiano dal punto di vista della qualità del consumo. Quindi diciamo che il consumatore occidentale di cibo non è più una macchina metabolica, ma è un consumatore prima di tutto di informazioni. Ecco perché il libro si concentra sulle informazioni. E quindi informazioni da una parte e quantità in aumento dall'altra, mixate nel grande frullatore delle tecnologie, che cambiano un po' il modo di produrre, di consumare, ma anche di parlare di cibo, creano questo particolare momento che è la food economy di oggi, che potrebbe essere molto vantaggioso per noi. Ecco, perché noi abbiamo dei punti di forza, dei punti in cui il valore aggiunto italiano è particolarmente rilevante, sotto il profilo della qualità, ma anche sotto il profilo dell'immagine, però con qualche problema, lei spiega nel libro. Sì, c'è un margine, mettiamola dal punto di vista positivo, c'è un margine di miglioramento enorme dal lato della comunicazione e della conservazione del valore del brand dei nostri prodotti. Lo vediamo in questi giorni in cui molte aziende italiane vengono acquisite da aziende estere. La parte più importante è avere un marchio, quindi un forte valore intangibile con cui penetrare i mercati esteri. Gli stranieri l'hanno capito benissimo, dobbiamo capirlo anche noi. Ecco, però ci sono stati alcuni casi, lei diceva nel libro, quello di Cremonini, quello di Barilla, in cui dopo aver ceduto agli stranieri, gli imprenditori italiani sono riusciti a ricomprarsi le aziende e a avviare percorsi di crescita molto rilevanti. Quindi in questa prospettiva possiamo dire che comunque c'è un equilibrio tra presenza straniera e volontà italiana di essere presenti sui mercati mondiali. Certamente c'è un equilibrio che comunque lascia spazio al nostro genio, alla nostra creatività e anche all'eccezionale forza di imprenditori come quelli che lei ha proprio citato. Ecco, in questa prospettiva ci sono mercati come quelli degli Stati Uniti e del Canada che stanno aprendosi alle produzioni alimentari dopo aver posto molti vincoli, però anche qui l'Italia rischia di essere un po' bypassata anche da quel fenomeno di copia dei prodotti. Ecco, sì. Ecco, in questa prospettiva che cosa si può fare? Come vede il futuro della produzione italiana? Il fenomeno dell'Italian sounding in particolare è molto curioso, se ne è parlato tantissimo, ho cercato di fare un passo in più. Ci rubano, tra virgolette, il premium price, cioè una maggiorazione di prezzo quando il prodotto è detto italiano, e anche la reputazione, perché gli acquisti stranieri che vengono fatti sui prodotti italiani sono anche oggetto di quello che è il prodotto italiano con una maggiore carica simbolica. Quindi sta tutto nel saper calibrare la produzione, la comunicazione, saperla concentrare su quel forte carattere di italianità che costruisce il valore percepito del prodotto, che non è solo materia, ma è anche immagine, anche comunicazione, storia soprattutto. Ecco, ci sono certi marchi però che in Canada e negli Stati Uniti sono stati quasi brevettati, pur non essendo italiani. Per esempio, il prosciutto di Parma può essere stato brevettato negli Stati Uniti e un produttore italiano può avere delle difficoltà a entrare in quel mercato. Sì, questo è vero, nonostante probabilmente questo accordo aprirà il mercato, però il problema è che chi prima arriva e prima registra un marchio ha per primo il diritto di sfruttarlo e quindi di invadere o di penetrare efficacemente un mercato. Non sempre le nostre aziende sono state così intelligenti, così diciamo lungimiranti da registrare il marchio. Qualcuno si dimentica o si è dimenticato in passato persino di registrarlo in Italia il marchio. Ecco, sappiamo che a proposito di esportare l'Italia, la prima cosa da fare quando si arriva in un paese estero con un marchio proprio è quello di registrarlo e di difenderlo, perché difendere il marchio vuol dire conservare e proteggere il valore del prodotto, il valore della propria azienda. Ecco, una realtà importante, guardando la situazione dell'industria italiana in questo libro, Food Economy, è quello del modello produttivo, dei rapporti tra le imprese. Lei titola un capitolo "Dalla filiera al network", cioè dal fatto che le aziende ragionino come una filiera in cui una dipende dall'altra, al mettersi in rete. Ecco, sul fronte alimentare a che punto siamo in questa modernizzazione delle strutture produttive e dei rapporti tra le strutture produttive? Siamo forse, questa è la nota profondamente negativa, è che forse è il settore più arretrato da questo punto di vista, perché la filiera è comunemente intesa da tutti come produttori, agricoltori quindi e allevatori, trasformatori e distributori. Questa struttura verticale oggi non è più così, perché un pomodoro non parte più dal campo e arriva nel piatto, fa un giro infinito che passa per la televisione, per i giornali, per l'editoria. Sono tutte parti di fatturato che probabilmente oggi non sono ancora calcolate, però oggi vedere la produzione agricola a sé stante, vedere la ristorazione a sé stante, senza il marketing, senza la comunicazione, senza sapere cosa c'è di fianco a te o sopra di te che ti può aiutare a veicolare il tuo prodotto, è piuttosto ingenuo. Ecco perché si parla di network oggi, è una struttura stratificata quella del food oggi, che ha legami infiniti con tante parti della società e tante diciamo sfaccettature dei consumi italiani. Ecco perché bisogna un po' cambiare visione in questo momento. Ecco, su questo pesa il fatto che gran parte della distribuzione in Italia, della grande distribuzione, sia controllata da società straniere? Sì, pesa, ma diciamo se ci sono gli stranieri il dato è positivo e vuol dire che c'è anche da parte del consumatore italiano una certa necessità di diversificazione. Purtroppo però scontiamo dei limiti dimensionali, questi sono comuni a tutti gli altri settori. Il fatto che ci siano 2-3 colossi in Italia e che non siano mai andati all'estero, non abbiano mai fatto grossi investimenti per portare i prodotti italiani all'estero, con dei modelli che sono efficientissimi in Italia, parlo di Conad, Selunga e quant'altro, dice molto anche sul fatto che servono le spalle larghe per competere nella food economy di oggi. Infatti all'estero sono ancora più grandi di questi due che ho citato, quindi è una grande sfida anche per loro. Ecco, una sfida che qualcuno ha raccolto, per esempio lei cita Farinetti con la sua Italy, che sta portando all'estero, a Tokyo come a New York, i suoi punti di vendita, puntando essenzialmente sul valore del Made in Italy. Questa può essere una prospettiva o è solo una punta, un'eccezione in una realtà che invece è un po' più piatta, quella di Farinetti e del suo Italy? Guardi, di Farinetti e di Italy si parla tantissimo, qualcuno anche in maniera critica. Gli va assolutamente riconosciuto dal punto di vista imprenditoriale la capacità di aver messo il Made in Italy intorno al prodotto alimentare, quindi di aver sfruttato quella parte fondamentale di racconto del cibo che purtroppo ancora troppo poche persone, troppo pochi imprenditori fanno. Lui è stato uno dei primi e speriamo che sia un esempio per tanti altri, e questa è una strada efficace quella che ha preso lui. Ecco, abbiamo iniziato parlando di Expo 2015, mancano meno di 200 giorni a questo evento, si parlerà molto di cibo. Le sembra che l'industria italiana alimentare stia avvicinandosi a questo appuntamento con il passo giusto, Antonio Belloni? Questa è una domanda difficile seppur interessante. Io credo che il mondo privato, il mondo dell'impresa si attenda un'ottima performance e un buon aiuto dal punto di vista istituzionale, politico e organizzativo. A questo non so risponderle. Le aspettative, ci sono great expectations, ci sono grandi aspettative dal mondo privato, che devo dire la verità credo che stia anche cominciando a investire su questa, diciamo, occasione promozionale di marketing. Quindi poi noi italiani sempre per il lotto della cuffia ce la facciamo e vinciamo anche i mondiali con una gamba mezza rotta. Non sempre, ma ogni qualche volta capita, insomma. Ecco, da un punto di vista complessivo, comunque lei che è esperto appunto di internazionalizzazione, non solo sotto il profilo dell'industria alimentare, l'Expo 2015 può essere un fattore che ridà un po' una carica, che ridà un po' una mossa alle capacità italiane? Sì, certamente può essere un'ottima occasione dal punto di vista del marketing di dare una spolverata a questo paese che ha seminato vento e ha raccolto tempesta ormai da troppo tempo. Stanno cambiando un po' di cose anche nella politica, chissà anche che il cibo sia un modo per riglamorizzare l'Italia, per renderla di nuovo bella ed interessante agli occhi del mondo. Cioè attraverso il cibo riuscire a vendere anche qualche macchina utensile in più in fondo? Sicuramente, sicuramente. Il cibo è la parte più interessante per gli stranieri di noi, il cibo ed il turismo. E sono, diciamo, degli ingredienti magici con cui noi potremmo anche, diciamo, influenzare altri settori che sono meno cool, diciamo, meno interessanti. Grazie mille, grazie ad Antonio Belloni di averci parlato di questo suo libro, Food Economy, l'Italia e le strade infinite del cibo tra società e consumi, edito da Marsilio, sono 144 pagine per 13 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Data l'ora non possiamo augurarvi buon appetito, ma ripeto, buona digestione a tutti. L'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo. We'll be right back.